Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Siamo in estate e non si può non parlare di gelato, anche perché se ci guardiamo attorno ogni giorno nascono gelaterie in ogni angolo, addirittura una attaccata all'altra. Si vede che il consumo di gelato, ma lo è aumentato in maniera notevole, però mi sembra che le gelaterie veramente siano un po' troppe. Poi magari diciamo che a fine d'anno, quando arriva l'inverno, probabilmente si faranno i conti. Comunque sia, il gelato è veramente stato negli ultimi anni uno dei fenomeni più interessanti nel settore, chiamiamolo così, alimentare. Perché questo? Forse perché costa anche poco un gelato, anzi in alcuni casi costa anche abbastanza, però probabilmente è più a buona portata di tanti altri prodotti, e c'è chi anche a mezzogiorno mangia con un gelato. Lo si vedono nelle file attorno alle gelaterie, specialmente d'estate, e si vede tanta gente che si mangia un bel cono enorme e probabilmente non so come fa a arrivare a sera, però c'è qualcuno che arriva tranquillamente, magari per rispettare la linea. Ma viene da chiedersi se in questi ultimi anni ci siano state tecniche di produzione completamente nuove, se gli ingredienti siano sempre più naturali, oppure se siano ancora le lavorazioni tradizionali a farla da padroni. Ma soprattutto, quali sono i gusti emergenti? Ebbene, durante questa ora che passeremo assieme cercheremo di dare risposta. Ma la prima risposta la voglio cominciare a dare con un fisico. Come voi direte, ma cosa c'entra un fisico col gelato? Bene, ora lo capirete. Buongiorno Davide Cassi. Buongiorno Davide. Bene, Davide Cassi insegna fisica all'Università di Parma, è un grande esperto di cucina, di cibo, e devo dire che è stato autore un po' di anni fa di un libro che si chiama Gelato Estemporaneo, assieme allo chef Ettore Bocchia. Però devo dire che questo titolo in parte rappresenta quello che c'è dentro, perché dentro c'è la spiegazione della cucina scientifica. Ma Gelato Estemporaneo comunque è anche uno degli aspetti di questo libro, è un po' delle ricerche di Davide Cassi, perché forse per primo ha capito che si può fare il gelato in maniera anche non artigianale, soprattutto partendo da, come posso dire, guardando fisicamente, studiando fisicamente il gelato. È così, Davide? Ma è così, è stato un percorso lungo e anche molto affascinante. Il gelato estemporaneo si fa con l'azoto liquido. L'azoto liquido è la parte principale dell'aria liquida ed è stato prodotto per la prima volta a fine 800. Che si potesse fare il gelato con l'azoto liquido l'aveva intuito una cuoca divulgatrice inglese già ai primi del 900, una tale Miss Marshall. Per poterlo realizzare abbiamo dovuto aspettare la fine degli anni 90. L'aspetto più interessante però è iniziato quando mi sono accorto che con l'azoto liquido si poteva trasformare in gelato qualunque tipo di liquido. Anche quelle miscele che per un gelataio tradizionale sono impossibili, per esempio latte poco zucchero o per esempio una bottiglia di vino dolce. E da qua sono nati tutta una gamma di gelati estemporanei estremamente vari, con consistenze diverse, e tutti molto interessanti perché si possono produrre senza l'utilizzo di additivi o di neutri, che sono poi quelle sostanze che neutralizzano i sapori naturali. Resta con noi perché ti faccio una sorpresa. Tu hai così teorizzato questo, ma poi c'è stato un tuo allievo che ha realizzato il gelato all'azoto liquido, e lo ha realizzato in una gelateria di Salsomaggiore, la gelateria Sanelli, e abbiamo con noi Corrado Sanelli. Buongiorno Corrado. Buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno anche Davide Paolini. Da quanti anni producete ormai il gelato all'azoto liquido? Praticamente abbiamo cominciato col professor Cassi nel 2005, abbiamo fatto un primo incontro alle Terme di Alviere di Salsomaggiore, e lì è stata la prima occasione pubblica di presentare l'azoto alle persone che non erano addette, diciamo. Come io invece ho cominciato col professor Cassi un paio di mesi prima, andando nel suo laboratorio in università assieme a mio figlio, e lì abbiamo conosciuto l'azoto e la semplicità di gelare la miscela con l'azoto, la velocità, la semplicità, e come diceva il professore poco fa, di far diventare gelato qualsiasi cosa. Tanto è vero che a un certo punto siamo andati alla macchinetta del caffè, abbiamo messo il gettone, preso un caffè, versato un po' di azoto insieme allo zucchero e mescolando, in quell'attimo è uscita una granita di caffè meravigliosa. Torno un secondo a Davide Cassi, è un po' un concorrente al Paco Jet. Interessante, diciamo che tutto quello che si può fare col PacoJet si fa anche con l'azoto liquido, magari non allo stesso modo. E costa molto meno però. Diciamo che costano molto meno le attrezzature, certo. Soprattutto. L'azoto liquido ha dei prezzi molto variabili perché dipende, come tutte le cose, da quanto ne consumi. Diciamo che un cuoco lo paga tra €1 e €1,50 al litro se ne consuma abbastanza. Ma a differenza di tutte le altre tecniche non hai bisogno di attrezzature costose, per cui un ragazzo che volesse mettere in piedi una nuova attività con massimo €5,000 può partire. Torno a Corrado Sanelli, ma com'è stata presa all'inizio a Salso Maggiore, ma non solo Salso Maggiore ma anche fuori, questa vostra nuova strada per il gelato? Guarda, le dirò che è una cosa molto strana. A Salso Maggiore è stata presa benissimo, forse perché le persone mi conoscevano, quindi il 98% delle persone era entusiasta, no? Una persona che un po' era un po' restia era mia madre, per esempio, perché diceva, mia madre che era gelatiera dal 1949, e diceva, ma dice, non vorrei che la gente pensasse che c'è dentro qualche cosa che fa male. Però io ad ogni persona spiegavo esattamente quello che mi ha spiegato il professor Cassi, ho imparato bene la lezione e tutti si sono convinti senza problemi. Invece in certe zone ho insegnato a certi miei amici, colleghi, o a chi mi ha telefonato, ho sempre spiegato tutto con grande tranquillità. In certe zone mi dicevano che c'erano dei problemi di proprio questi qua, di dire ma cosa ci sarà dentro, cioè non si fidavano della, io a questo punto non so se non si fidavano o del gelatiere o non erano abbastanza istruiti sull'azoto liquido. Ecco, prima forse bisognava fare un piccolo corso alle persone, dire guardate che l'azoto liquido lo stiamo respirando, questo è soltanto schiacciato tanto forte che diventa liquido, ma è completamente naturale. Volevo chiedere a Sanelli quali sono i gusti che vengono meglio in questa maniera. Vengono bene tutti, sia le granite che le creme. Ecco, c'è questo problema, che se si parla di gelato estemporaneo, cioè fatto il momento, è servito il momento, posso fare un gelato senza zuccheri, con latte, senza latte, solo caffè, anche solo acqua, e viene fatto il gelato e va consumato subito. Se però, questa è un'indicazione che va data ai gelatieri che volessero incominciare il lavoro con l'azoto, se invece il gelato deve rimanere alcune ore ed essere servito per esempio dopo 4 ore, 5 ore o addirittura il giorno dopo, allora lì occorre fare un bel corso di gelateria per imparare bene il bilanciamento, cioè un certo quantitativo di grassi, di zuccheri, quello che ci vuole per mantenere il gelato a 13 gradi sotto zero, che rimanga spatolabile e vendibile. Perché se io faccio un gelato all'azoto senza mettere nessuno di questi ingredienti, senza mettere grassi ad esempio o senza mettere zuccheri, io lo tengo a 13 gradi sotto zero, che è la temperatura di vendita del nostro gelato artigianale, diventa duro come un sasso se non ha certi parametri, oppure se ha troppi zuccheri diventa molle, insomma. È stato di fatto, questo lo posso annunciare tranquillamente, come ho detto sempre a tutti, che se è bilanciato bene per 3-4 giorni il gelato rimane perfetto. Grazie a Corrado Sanelli a Salso Maggiore. Chi volesse assaggiare il gelato all'azoto liquido, torno per velocissimamente da Davide Cassi. Gli chiedo, Davide, in questo momento in cui tutti stanno parlando di salubrità del cibo, appunto di sicurezza, io credo che il gelato all'azoto liquido sia una garanzia. È una tecnica estremamente naturale, se ci pensi, esattamente come puoi stappare la bottiglia di vino davanti al cliente, trasformarla in gelato, puoi anche spremere un'arancia e trasformarla in sorbetto, quindi hai la garanzia assoluta del controllo sul processo di produzione, sulla materia prima. Ti scegli i tuoi ingredienti, li fai scegliere al cliente e produci il gelato. Direi che da questo punto di vista, anche a livello di marketing, è estremamente promettente. Certo. Bene, grazie a Davide Cassi e a Corrado Sanelli, grazie a tutte e due e buon gelato all'azoto liquido. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Il gelato al limone, certo che il gelato al limone farlo buono non è facile. Beh, lo chiediamo a Antonio Vozza del Bar Gelateria Museo a Pestum. Buongiorno Vozza. Buon pomeriggio a lei. È facile fare il gelato al limone. A me un gelataio mi ha detto: guarda, se vuoi capire la qualità di una gelateria, il gelato più semplice pare essere quello di limone, in realtà è il più difficile. Pensa il così. Più difficile da fare, perché il limone tecnicamente ha degli aspetti un po' difficili da gestire, però noi abbiamo la fortuna qui di avere la Costiera Amalfitana che ci dà un prodotto che è un'eccellenza del nostro paese, quindi siamo già avvantaggiati rispetto a tante altre zone e quindi riusciamo a fare un gelato sicuramente di qualità superiore. Francesco Dioletta del Duomo di, della gelateria Duomo di Aquila, anche lei la pensa così, che è difficile fare il gelato al limone? Buonasera, sì, diciamo che è uno dei gelati un po' più complicati per l'acidità che c'è dentro da gestire, però diciamo è, con un po' d'attenzione, un buon sorbetto viene bene, diciamo. Ecco, io torno, rimanga con noi Dioletta, torno a Antonio Vozza, perché Antonio Vozza voglio che mi racconti una bella storia diciamo tra colleghi, magari mi citi anche i suoi colleghi, perché assieme ad altri tre gelatieri hanno lavorato, si sono conosciuti, hanno lavorato assieme, quindi bando alla concorrenza, anche se non erano ovviamente nella stessa città ma erano abbastanza vicini, e sono riusciti a creare un nuovo gusto. Ce la racconta questa storia, Vozza? Sì, devo ringraziare innanzitutto la Saima e la Giuso, che sono state le due aziende che ci hanno permesso di poter fare questo progetto. E niente, in pratica noi quattro gelatieri della Campania ci siamo riuniti, i primi quattro gelatieri del sondaggio del Gastronauta, che siamo arrivati nei primi 10 posti, ci siamo riuniti e abbiamo creato questo gusto da diffondere tutti quanti nelle nostre gelaterie, che valorizzano al massimo i prodotti del nostro territorio. Abbiamo fatto un gelato alla ricotta di bufala, variegato con una marmellata dei fichi del Cilento, delle scorzette di limoni della Costiera Amalfitana e delle noci di Sorrento. Tutto ciò prende il nome di Terra Mia proprio perché sviluppa tutte quante le qualità del nostro territorio. I colleghi che hanno partecipato insieme a me a questo progetto sono Panza della gelateria Panza di Amalfi, Marco Infante di Casa Infante Gelato di Napoli e la gelateria Joyce di Nola. Senta Vozza, che risultati vi ha dato? Cioè, è piaciuto? Piace al pubblico? Nella mia gelateria, posso parlare della mia gelateria, un cliente su tre lo mangia, piace e lo riprende la volta successiva. Avete lavorato assieme, avete gustato, avete provato, avete riprovato? Sì, abbiamo fatto delle prove in laboratorio e siamo riusciti a creare questo gusto è molto piacevole, non dolce, che ha varie sfaccettature di gusto, ha i suoi alti e bassi nelle acidità, nella dolcezza, nelle consistenze. Quindi proprio veramente un gelato del territorio. Bene, sì. Lei ha citato il sondaggio appunto 2014 del Gastronauta sui gelatieri, su quasi tutti i gelatieri italiani, su una buona parte insomma di gelatieri italiani, tutti no perché mi sembra che siano qualcosa più di 10.000, il cui vincitore è stato tra l'altro Francesco Dioletta, che appunto è qui con noi, ma voglio ricordare che il sondaggio 2015 è in corso in questo momento, quindi chi volesse votare la miglior gelateria, quindi la propria preferita, può farlo www.gastronauta.it. ma voglio chiedere a Francesco Dioletta se quest'anno ci sono dei gusti emergenti o sui tradizionali sono sempre vincenti? Ma a mio avviso nei nostri punti vendita puntualmente trovo sempre i tradizionali che rispondono alla grande. Poi certamente ecco qualcuno del territorio, per esempio noi facciamo un torrone allo zafferano di Navelli, torrone aquilano con lo zafferano di Navelli che ha nome Sapori Aquilani, e questo ha preso un posto in vetrina stabile perché i clienti lo richiedono e quindi l'abbiamo fatto entrare di diritto, diciamo, nei standard. Il gusto, la novità di solito passa e invece i gusti classici rimangono sempre, cioè sono quelli che il cliente comunque chiede tutti i giorni. Poi c'è qualche novità, quelle proprio che risultano vincenti e si creano il loro spazio e diventano inamovibili, chiaramente. Ecco, ma questi, diciamo, quest'anno qual è il gusto, diciamo, emergente che sta facendo successo? Ce n'è uno in particolare? Ma guardi, noi sulla nostra vetrina, diciamo, quest'anno abbiamo realizzato un gelato che è la discordia un po' di tutti i gelateri, no? Il puffo. Ah, certo. Perché dice che c'è i coloranti e noi ci abbiamo studiato abbastanza, sono un paio d'anni che stiamo ottenendo appunto sta ricetta e con l'alga spirulina, che è un'alga naturale che si trova in natura, viene estratta la cocianine, che sono blu praticamente, il colore blu, e viene questo gusto così naturale e devo dire che le mamme apprezzano, perché quando si dà una spiegazione si dice gli ingredienti, che praticamente sono un fior di latte con panna, latte fresco e alga e basta, non ci sono coloranti, diciamo. Ma voglio tornare a Antonio Vozza, voglio chiedere Vozza, ma lei ha qualche, diciamo, gelato, qualche gusto emergente quest'anno che va molto forte? Ma pure da noi, a parte i gusti classici, da noi è molto molto richiesto il pistacchio. Abbiamo un pistacchio agrigentino dei feudi San Biagio che stiamo proponendo da un paio d'anni, che veramente merita per l'alta qualità del prodotto, e quindi i clienti stanno apprezzando e si stanno moltiplicando, onestamente, perché abbiamo quasi la stessa produzione della nocciola. Ah, ecco, ma lei ha citato un altro pistacchio, non ha citato Bronte, guarda caso, ma quanto ce n'è di questo Bronte in giro? Il 100% della produzione mondiale. Lo so, quindi diciamo che tutti quelli che parlano di pistacchio di Bronte, sì, ci sarà chi veramente compra pistacchio di Bronte, che è talmente poco, ma si potrebbe anche cominciare a non metterlo più di Bronte, perché così ci sarebbe maggiore sincerità da parte dei gelatieri. Violetta, lei cosa ne pensa? Ah, riguardo al pistacchio è un argomento infatti un po' particolare, diciamo. Noi usiamo un pistacchio di un'azienda di semilavorati che fa pistacchio di Bronte DOP. Ho capito. Però certamente anche io sono un po' titubante su questo argomento, perché sì, il pistacchio è buono, è quello senza coloranti, quindi per farlo digerire alla clientela è anche un po' difficile, perché alcuni dicono: ma quella è nocciola. No, guarda, il pistacchio. Infatti, come diciamo chiaramente, che il pistacchio, il gelato di pistacchio, non deve essere verde, ma deve essere un qualcosa che tenda al marroncino. Ma voglio anche capire qual è il gusto tradizionale vincente, Vozza. Ah, la nocciola. La nocciola. Da noi la nocciola. Nocciola e cioccolato è il classico che non tramonta mai. Violetta, da voi? Decisamente nocciola, cioccolato e stracciatella. Bene. Quindi abbiamo unanimità di giudizio e per questo passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno i nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò, insomma, che nessun luogo è lontano. Dal 27 luglio alle 16 qui su Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, cari radioascoltatori, continuiamo a parlare di gelato, però stavolta è una storia molto particolare, molto bizzarra, ma anche, devo dire, molto divertente, anche perché prende ispirazione da una canzone. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu, gelato al cioccolato. Avete avete sentito questa, diciamo, questa canzone popolarissima, credo che tutti conosciate questo testo e il cantante Pupo. Ebbene, da questa canzone appunto di Pupo è nato anche un'attività, è nata una gelateria che conducono appunto le figlie di Pupo. E buongiorno a Ilaria Ghinazzi, figlia di Pupo. Buongiorno Radio 24. Buongiorno. Beh, questo testo, questa canzone, quante volte l'avete ascoltata voi? Oh mamma mia, tantissime, ancora ce l'abbiamo tutti i giorni a profusione qui in gelateria. Eh beh, immagino. In gelateria sento dei rumori, quindi siete al lavoro. Senta, sì. Ma lei prima di aprire questa gelateria aveva la passione del gelato oppure è nata postuma? Allora, no. Io mi sono ritrovata a 40 anni a fare la gelataia e in pochissimo tempo mi sono appassionata tantissimo. Sono stata all'università a Bologna, all'università di Carpigiani, e da lì ho incominciato insomma a appassionarmi. Attenda un secondo, perché guardi, nell'altra linea al telefono abbiamo un personaggio importante appunto dell'università Carpigiani. Abbiamo Valentina Righi, che è la communication manager. Buongiorno Valentina. Ciao a tutti, buongiorno e ciao Ilaria e complimenti ancora, noi vi abbiamo seguiti in questa dolce avventura e è veramente musica e gelato, è l'abbinamento perfetto, perché come anche i gelatieri papà amano definirlo, il gelato è musica e quindi è una cosa bellissima. Beh, è una coincidenza, perché non dovevano essere chiamate in quest'ordine, però casualità ha voluto che ci sia questa coincidenza tra la Righi e Ilaria Ghinazzi. Diciamo che la gelateria Ponticino, no? Provincia di Arezzo, quindi sì. Specifichiamo questo. Ma volevo chiederci, sono dei gusti particolari che lei ama ora? Allora, in questo momento qui funziona tantissimo il caramello salato e il cioccolato bianco ai fiori di bosco. Questi sono due gusti particolari, però poi funzionano i gusti classici, nocciola, pistacchio e cioccolato, sono quelli che funzionano insomma di più. Senta, il pubblico come ha reagito a questa, diciamo, è stato interessato, quindi molto, avete delle visite anche fuori? Il pubblico è molto partecipe, sono carinissimi e siamo molto soddisfatti, ci vogliono bene per il momento, insomma ci dimostrano affetto, ci dimostrano starci vicini e poi gli piace il gelato, quindi quella è la cosa fondamentale, che viene apprezzato il gelato. Senta, diciamo che le materie prime sono fondamentali nel gelato? Fondamentali sono le materie prime e devono essere di qualità per far sì che il gelato venga buono. Quindi bisogna scegliere anche il giusto e magari dire che ci può essere anche altro pistacchio oltre quello di Bronte, se è buono. Ci sono tantissimi tipi di pistacchio, tantissimi tipi di nocciola e non è vero che sono uguali, c'è quello migliore, c'è quello un po' più scadente, quindi insomma la qualità è fondamentale. Ecco, mi dica la verità, il pubblico capisce di gelato, nel senso quando viene riesce a capire la qualità della materia prima? Sì, secondo me sì. Ah, quindi perché se no non ritornerebbe una seconda, una terza volta. Ecco, sì. Lo chiedo a Valentina Righi, Valentina, è cresciuta la sensibilità del pubblico rispetto alla qualità del gelato? Voi che sicuramente fate delle indagini. Sì, questo negli ultimi anni abbiamo visto, soprattutto in Italia, poi anche nel mondo, però ovviamente l'Italia ha un numero altissimo di gelaterie, ne abbiamo più di 37.000 e consideriamo che nel mondo ce ne sono meno di 100.000, quindi diciamo che in Europa abbiamo più della metà delle gelaterie che sono nel mondo, in Italia la maggior parte di queste, e negli ultimi anni abbiamo dovuto creare anche dei corsi per gelatieri avanzati, specializzati, perché le richieste dei consumatori appunto diventano sempre più sofisticate. Per esempio ultimamente abbiamo lanciato il corso in gelato a basso indice glicemico, può essere fatto con latte di soia, latte di riso e comunque ecco, oggigiorno il cliente chiede qualità. Purtroppo dall'altra parte però succede che ancora vediamo ovunque scritto gelaterie artigianali e non c'è una disciplinare che preveda appunto questa dicitura, molti sicuramente ne approfittano, perché diciamo che c'è anche buonissime gelaterie, però ci sono gelaterie che ancora usano dei prodotti sicuramente non di grandissima qualità. Ma questo, continueremo a fare questo discorso. Io faccio l'ultima domanda a Ilaria Ghinazzi, perché sento che è in gelateria e quindi avrà pubblico, dovrà servire. Volevo chiederle questo: voi oltre al gelato servite altre cose oppure solamente gelato, proprio gelateria 100%? Noi abbiamo anche yogurt e poi abbiamo un piccolo angolo bar dove c'è il caffè e le bibite. Bene. Bene, allora io le auguro tantissima fortuna e continuate con la canzone appunto Gelato al cioccolato, che a questo punto diventerà veramente un inno. Grazie, grazie Ilaria Ghinazzi. Grazie mille, buonasera, grazie. Arrivederci, grazie. Torniamo a Valentina Righi. Valentina Righi, che ha fatto un po' il giro del mondo con questo tour del gelato mondiale, e a lei volevo chiedere, esatto, ma quali sono i gusti emergenti? Ci sono dei gusti strani che hai visto in giro per il mondo che stanno emergendo? Dipende dalla parte del mondo che si visita. I nostri gelatieri in tutto il mondo sono super creativi. Quando siamo stati con il Gelato World Tour a Valencia in Spagna nel 2013, abbiamo visto il gelato al gazpacho, per esempio, e poi invece siamo volati a Austin in Texas negli Stati Uniti a maggio del 2014 e lì abbiamo visto il candied bacon gelato. Sì, quindi veramente gusti strani. Adesso a marzo del 2015 abbiamo cominciato la seconda edizione del Gelato World Tour, che appunto organizziamo noi della Carpegiani Gelato University con il SIGEP Rimini Fiera, con il supporto di IFI, Pregel e Rancilio, quindi anche il caffè si è unito in questo giro del mondo appunto di dolcezza, e a Singapore abbiamo visto gusti tipici del sud-est asiatico, quindi coconut e gula melaka, che è uno zucchero di canna di quella parte del mondo abbinato appunto al cocco, è un gusto che amano molto a Singapore. L'aveva chiamato la gelatiera Sharon Tay, una donna, Good Old Times, e anche lei, come Ilaria, sono circa coetanee, e faceva la diciamo la dipendente di banca anche a un certo livello, e poi ha deciso di cambiare vita a 35-40 anni e di aprire una gelateria, e ha vinto il Gelato World Tour di Singapore. Poi c'erano gusti con la birra e la ciambella, un gusto al curcuma. Ti voglio chiedere se in Giappone hai visto un gelato fatto con questo melone che costa $22,000. Non so, questo è un po' difficile forse. Adesso andremo a Tokyo a settembre, la tappa del Gelato World Tour dal 4 al 6 settembre, ancora non sappiamo i gusti perché li riveleremo i primi d'agosto, stanno selezionando i giudici appunto del Giappone tra i vari candidati alla gara, perché solo 16 di loro potranno partecipare alla tappa, vedremo se le ci sarà, sono molto alte. Costerà un po' caro, ma voglio chiederti anche, esatto, non sono troppe le gelaterie che sono cresciute in Italia? Beh, tu non puoi dirlo, perché appartiene a una società appunto che vende i macchinari, di conseguenza sarà un po' rischio. Quante sono le gelaterie in Italia? Quante sono le 37.000. Allora, non tutte, queste sono le, diciamo, i numeri che dà Confartigianato, sono i numeri di Coldiretti, i numeri nazionali, che contano più di 37.000 gelaterie. In realtà, e guarda, io giro parecchio, ero anche nei giorni scorsi, ce l'avevamo detti, in Sardegna, e non è che ci siano poi così tante gelaterie, cioè ce ne sono, ma ci sono file ovunque. Sì, quindi l'importante è trovare la location. Io non direi questo, direi che ci sono in giro per Milano, per esempio, ci sono gelaterie, una attaccata all'altra, una c'ha la fila, l'altra è vuota, perché insomma ci sono anche tecniche di questo genere, che quindi mi sembra che un'esagerazione ci sia stata. Poi devo dire che sono un po' sconcertato quando leggo degli annunci sui giornali in cui dicono che con €7,500 ti danno una gelateria pronta. Ecco, credo che ci sia un po', come posso dire, si va al di là di quello che è il consumo vero e proprio. Come dicevi tu, bisognerebbe distinguere, ed è un peccato che non ci sia ancora una regolamentazione. Io spero che i gelatieri nei prossimi anni lo trovino. Noi, come anche Fondazione Bruto Pario Carpigiani, abbiamo collaborato con Art Glass, che è l'associazione dei gelatieri europei, e, quando è stata decretata la giornata europea del gelato artigianale, però la strada da fare è ancora lunga. Io credo che la selezione naturale poi operi in questo senso, che come hai detto tu, alcune gelaterie hanno la coda, altre no. Prima o poi sì no, ma il mercato, insomma, alla fine paga, a meno che dietro certe gelaterie non ci sia altro, e qui mi fermo, non vado. Però c'è da dire, Davide, che all'estero la strada è completamente aperta, cioè, calcoliamo che negli Stati Uniti, in tutti gli Stati Uniti ci sono 900 gelaterie. In tutto? In Cina ce ne sono 400. Ecco, a Singapore ce ne sono meno di 100. Indonesia, Malesia, Filippine non parliamone neanche. Quindi i numeri all'estero sono bassissimi, ma infatti noi alla Carpigiani Gelato University vediamo aumentare gli studenti, e più del 50% adesso sono stranieri. Tra l'altro cominceremo, questa è un'anteprima assoluta che vi do, anche a fare i corsi in arabo. Adesso li facciamo già in cinese, in giapponese, però in arabo anche ancora in arabo non li facevamo. Quindi invaderemo Abu Dhabi, invaderemo Doha, invaderemo siti gelati, ma anche giusto, ma il gelato è un simbolo italiano, sicuramente in giro per il mondo la gente parla di gelato italiano, e bisognerebbe mantenere questa caratteristica e far sì anche che la qualità, soprattutto all'estero, del gelato italiano sia riconosciuta. Io ti ringrazio, Valentina Righi, che fa parte di Carpigiani Group, e ci ha raccontato un po' cosa succede in giro per il mondo. E allora io passo la linea alla regia, ma fra poco continueremo ancora a parlare di gelato, e mi viene voglia di mangiarmi un cono appena uscito qui dalla trasmissione. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, o forse anche da sola. Sono Anna Rita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Sempre gelato in ogni angolo, gelato in ogni dove. Ebbene, come dico, mentre si è qui al caldo si pensa veramente a mangiare un buon cono di gelato. Allora ora andiamo a Bologna, perché anche qui c'è un caso molto interessante di un personaggio che da una gelateria, chiamiamola così, tradizionale, anche se già all'inizio usava materie prime di grandissima qualità, poi è diventato bio e poi è diventato anche, fa anche gelato vegano. Buongiorno a Stefano Roccamo. Buongiorno Stefano. Sì, salve Paolini, buonasera. Gelateria Stefino. Allora Stefano, tu sei stato veramente, sei un antesignano di queste strade. Ecco, quali sono i risultati? Cioè la gente come reagisce quando tu magari fuori c'hai scritto gelato vegano? Ma dunque, io inizio nel 2008, quando ho aperto parallelamente all'attività tradizionale una gelateria che faceva gelato esclusivamente vegan. E è stato un esperimento abbastanza coraggioso, per non dire un po' folle. Certo, perché, certo. Ecco, perché sì, la risposta è stata molto tiepida dal consumatore medio, da parte del consumatore medio. È chiaro che c'è una fetta di consumatori di utenza che è indirizzata verso questo prodotto, che già allora chiaramente aveva apprezzato la proposta che facevo, però ha fatto molta fatica ad affermarsi, tant'è che poi da ormai 4 anni a questa parte ho unito i due concetti in un unico locale che propone sia la proposta tradizionale che quella vegan. E dunque c'è molta curiosità sicuramente, molti si avvicinano oltre che per scelta di tipo etico, per problemi di intolleranza alimentare, e questo bene o male riscontro che sto avendo adesso. Alcuni assaggiano per curiosità e apprezzano anche il prodotto vegan, pur non avendo la stessa cremosità che può avere il prodotto con latte. Ecco, vegan significa non usare latte, non usare uova. Né latte, né uova, né panna, né altro ingrediente d'origine animale. Io uso esclusivamente latte di riso e zucchero di canna e poi la materia prima, per cui della mandorla piuttosto che della nocciola o del cacao e via dicendo. Così ho un assortimento di a parte i gusti di frutta, che sono vegan da sempre per quanto mi riguarda, perché li preparo a base d'acqua, sono dei sorbetti, come creme tra virgolette ho grosso modo una quindicina di gusti in menù. Chiaramente non c'è la crema, perché la crema è fatta con l'uovo, insomma. Certo. Però molti gusti a base di frutta secca, i gusti a base di cioccolato li faccio esclusivamente con latte di riso, perché li preferisco di gran lunga. La mancanza del latte permette di avere maggiore intensità del gusto del cacao, per cui ho almeno 6 gusti a base di cacao e poi molti altri gusti a base di frutta secca, ecco. Senti, qual è il gusto vegano che va di più? Allora, che va di più? Sicuramente, per tornare a quello che dicevo prima, il cioccolato fondente, e poi anche il gianduia, e poi una mia specialità che facevo una volta con latte, su questo mi sono convertito perché io stesso lo preferisco come gusto, che si chiama Mediterraneo, ed è un gusto che ha un mix equilibrato di mandorla e pistacchio. Bene, rimani ancora un secondo con noi, andiamo a Sapri, andiamo da Enzo Crivella della gelateria Cioccolatera di Sapri, una gelateria che ha vinto il primo sondaggio sul sito del Gastronauta. Buongiorno Enzo Crivella. Oh, buongiorno Davide. Enzo, tutto bene? A Sapri, sì, tutto bene, grazie. Enzo, a Sapri quali sono i gusti emergenti? Ci sono dei gusti nuovi quest'anno? I gusti ce li inventiamo ogni anno, secondo le esigenze, poi i clienti ogni anno adottano un gusto nuovo, quindi abbandonano quello vecchio. Purtroppo sono loro a decidere più che noi che proponiamo, perché in giro c'è tanta di quella roba che non si sa, il vegano, il biologico, eccetera, non riusciamo più a capirci granché, però io seguo la mia linea, che è quella che uso il gelato per parlare un po' di territorio, che è il mio Cilento, e quindi utilizzando tutti i vari tipi di latte, cominciando dal latte nobile, come si usa Slow Food, latte di capra, latte di bufala, e poi i vari abbinamenti. Quindi da questo escono fuori dei gelati un po' molto legati con un'identità legata al territorio. Quindi latte di capra, latte di bufala anche usa? Sì. E come si amalgama il latte di bufala? Qual è, diciamo, il gusto col quale emerge meglio questo latte? Il latte di bufala ultimamente, perché poi aggiungo la ricotta, perché comunque è un latte molto grasso, quindi devo eliminare certo. Altri grassi che ne fanno parte per avere un gelato che non sia poi pesante, quindi l'abbinamento è già con qualche frutta che gli dà l'acidità, oppure il miele, quindi non andiamo oltre queste cose qua, perché sennò diventa eccessivo, tutto diventa eccessivo. Poi ormai cominciamo a usare il malto come dolcificante naturale, al posto dello zucchero, insomma ci sono un sacco di nuove tecnologie, quindi si usa lo sciroppo di riso biologico, come diceva Stefano, quindi in effetti siamo tutti alla ricerca di novità, però novità alla fine è la gente, c'è sempre una parte della gente che sceglie sempre i gusti classici che rimangono comunque quelli più appetibili. Voglio tornare a Stefano alla gelateria. Stefano, il pistacchio ha ancora questo grande successo quando gli si mette Bronte vicino, oppure anche senza Bronte vicino? Ma dunque, io ho tolto la scritta Bronte da un po' di anni. Bravo. Perché poi sì, scrivo pistacchio di Sicilia, perché poi a seconda delle stagioni non è così facile approvvigionarsi con pistacchio di Bronte, per cui quando non ne trovo sufficienza, oppure i prezzi sono inavvicinabili, acquisto pistacchio da Agrigento, da un consorzio di agricoltori che peraltro conosco personalmente, un paio di famiglie le conosco personalmente, e quindi in questo modo tengo d'occhio anche la filiera, perché sì, mi piace anche questo, insomma, no? Vedere i campi che poi danno i prodotti con cui riesco a fare il gelato. E quindi ecco, l'indicazione sicuramente di Sicilia dà la connotazione di un prodotto certo. Arriva dal nostro territorio. E il mercato del pistacchio, per chi lo conosce, è una giungla, insomma, arriva un po' da ovunque, dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Siria, poi anche dai paesi orientali, esattamente, e a prezzi ovviamente concorrenziali. Sicuramente il prodotto che abbiamo in Sicilia è di qualità migliore, ecco. Poi insomma si tratta sempre di avere una giusta ricetta con un giusto equilibrio e un consistente dosaggio di materia prima per avere un gelato finito che sia buono, di qualità, insomma, a prescindere dalla provenienza della materia prima, ecco. Bene, ti ringrazio, grazie a Stefano della gelateria Stefino di Bologna. A presto, ciao e grazie. Ciao. Torniamo a Enzo Crivella. Crivella, lei che è sempre un vulcano di iniziative, cosa combina quest'estate? Allora, quest'estate abbiamo in programma il 25, 26, 27 settembre addirittura, proprio perché devono iniziare le scuole, perché il primo giorno di questo festival sarà legato alla scuola e quindi grandi laboratori per i bambini, per i ragazzi, per far capire che cos'è un prodotto. Lo sforzo di questo festival non è quello di fare cassa come si fa abitualmente, perché tutti questi festival sono in giro, ma è quello di dare le maggiori informazioni e poi questo rapporto tra l'industrializzazione e la ruralità, diciamo, dell'artigianalità. Insomma, fare educazione sui ragazzi che sono i principali consumatori di gelato, o non sono più i ragazzi ma sono gli adulti, com'è la situazione ora? È alla pari, perché io per esempio ho tentato di fare ultimamente una self-service, queste gelaterie che vanno per i ragazzi, ho cercato di capovolgere questa tendenza, anziché usare questi prodotti che sono perlomeno sono polverine, cioè abbiamo cercato di fare un gelato artigianale, facendo un'erogazione, diciamo, per i giovani, ed è alla fine abbiamo conquistato gli adulti e abbiamo preso i giovani, non perché loro non riescono a capire poi l'importanza della qualità, però ci siamo riusciti, perché abbiamo fatto anche vedere che in effetti anche dei McDonald's, ci stavano a McDonald's tipo Slow Food, quindi con queste macchinette, quindi c'è un'erogazione tipo di un gelato soft, però sì, di qualità. Senta Crivella, ma non siete un po' troppi come gelatieri in giro per l'Italia? Quello sì, quello è una cosa incredibile, perché nascono come i funghi, perché dopo l'effetto Grom, questo tutti quanti non solo aspirano ad aprire una gelateria, ma aspirano a fare questi 10, 20, 50 gelaterie, questi franchising enormi, però veramente la gente non riesce più a capirci, però diciamo poi sono loro a capire realmente quali sono le gelaterie che vanno per la maggiore. Li provano tutti, poi alla fine la selezione la fa. Ha ragione, comunque, ha ragione, comunque. La selezione la fa il consumatore. Esagerando un po', penso io. Va bene, grazie Crivella, io la ringrazio. Grazie. Vi aspetto al festival di Sapri. Va bene, andremo a Sapri. Ora abbiamo finito questo giro sul gelato. Avete sentito che le tendenze emergenti, però ce ne sono poche di nuovi gusti, si torna sempre al passato, e la nocciola e cioccolato sono sempre quelli più gettonati, anche se ogni anno c'è, diciamo, il gusto nuovo del mercato, ma magari cambia anche questo da gelateria a gelateria. Bene, e abbiamo finito questo giro, avete sentito tante gelaterie in giro per l'Italia, veramente ce ne sono tantissime di buone, però io voglio fare ancora una volta, voglio aprire così una piccola chiosa su quella gelateria con quell'artigianale vicino. Ecco, sicuramente ci sono tanti che sono veramente artigiani, ma ce ne sono anche altrettanti che non lo sono per niente, e con questa scritta attirano con un gelato che sicuramente dell'artigianale ha ben poco. Abbiamo chiuso, vi auguro una buona domenica e un appuntamento alla prossima da Davide Paolini.